Il Teatro Biblioteca Quarticciolo, sapete che è un teatro con biblioteca, uno dei pochi progetti riusciti a Walter Veltroni a suo tempo, di creare nei municipi di Roma dei centri culturali che allora si chiamavano polivalenti. E questo del Quarticciolo in qualche modo fa capo a questa idea che insomma poi è rimasta abbastanza ineseguita, inesplorata e irrealizzata, perché abbiamo delle biblioteche ma funzionano solo come biblioteche. Qua c'è un teatro, questo teatro agisce in una zona che una volta si chiamava Borgata, il Quarticciolo è nato come quartiere in epoca fascista nel 24-25, ha un suo piano regolatore e anche un suo fascino, perché ha degli spazi verdi, cioè sono delle case a schiera. Però, insomma, nati con un piano regolatore, nati anche con un concetto che era la casa romana, dove durante il fascismo appunto gli abitanti del centro venivano esportati e confinati in periferia. E oggi, a distanza di quasi 100 anni, questa borgata non è cambiata molto dal punto di vista del rapporto con la città, perché rimane abbastanza separata, anche se come area geografica non è distante, però non essendoci una metropolitana, insomma, la distanza con la città si fa sentire, c'è solo un tram e degli autobus, no? Cioè, non ci sono cinema, anche i servizi culturali sono limitati a questa biblioteca e a questo teatro. Questo preambolo per dire che il Teatro del Quarticciolo nasce in una zona arida di cultura, con una popolazione abbastanza che frequenta relativamente il teatro e frequenta qualcuno di più la biblioteca. Allora il problema che ci siamo posti è come comunicare con la città e come comunicare al di là della città, insomma, problematiche, temi, dibattiti, eccetera. In un momento in cui il teatro, in periodo pandemico, è chiuso, e quindi in questo teatro chiuso al massimo si possono fare delle residenze, ma diciamo il rapporto con l'esterno è diventato molto precario, insomma è anche più complesso e più difficile del solito. Quindi questo quadrimestrale online ci è sembrato un modo per dialogare sia con le strutture associative del Quarticciolo, e ce ne sono tante, insomma, nonostante la deprivazione di cui parlavo prima di strutture pubbliche, sono strutture associative tutte di volontariato, di giovani che fanno il doposcuola, che fanno la palestra popolare, insomma, quindi c'è un movimento spontaneo e del tutto volontario nel quartiere. Quindi questo quadrimestrale TBQ Voices vuole essere un modo per dialogare con le strutture del Quarticciolo, con le strutture della città e con una, chiamiamola, comunità intellettuale, eccetera, anche fuori dall'Italia. Infatti abbiamo anche la versione inglese. Come si compone un numero? Com'è strutturato? C'ha sempre un concept, un editoriale in termini classici, no? Che parte da un interrogativo, da una domanda, no? Che si rivolge sia al singolo, appunto, di cosa ho bisogno io e di cosa abbiamo bisogno come società, come comunità, come paese, come nazione, come mondo, no? Quindi un interrogativo declinato sia in termini soggettivi che in termini collettivi e sociali. Su questo interrogativo, quindi su questa domanda aperta, invitiamo a rispondere, a interrogarsi, il più delle volte degli artisti di teatro, ma non solo, degli artisti delle diverse discipline, no? In quest'ultimo abbiamo Michela Lucenti, che è una coreografa di balletto civile, abbiamo un gruppo spagnolo che è Ascona e Tolosa, abbiamo un artista visivo che è Alfredo Pirri, abbiamo una scrittrice che fa parte lituana, Daiva Grainite, che fa parte del gruppo che aveva il padiglione lituano che ha vinto alla Biennale di Venezia scorsa, abbiamo Babilonia Teatri, abbiamo un intellettuale artista come Emanuele Braga. In ogni numero c'è sempre un reportage fotografico di un fotografo, diciamo, che fa parte della redazione della squadra di lavoro che abbiamo messo su per PBQ Voices, che è Paolo Cenciarelli, e ogni volta, ogni numero scegliamo un soggetto. In questo numero di cosa abbiamo bisogno, Paolo ha fotografato i ragazzi, i bambini del quarticciolo, quindi abbiamo un reportage fotografico di facce, di volti, di ritratti di bambini. Nel numero precedente avevamo le fotografie di Forte Prenestino, per quello che riguardava in particolare le porte di Forte Prenestino, essendo un forte, quindi con tutte le decorazioni, i graffiti, i patchwork molto colorati del forte. E nel numero 1 era in piena pandemia, per le strade non c'era nessuno, abbiamo un reportage proprio sul quarticciolo come quartiere, quindi come architettura. E poi come nucleo centrale c'è una conversazione ogni volta con un personaggio, io dico rappresentativo sia delle istituzioni. Nel primo numero avevamo Luca Bergamo, l'assessore alla cultura del Comune di Roma, ex assessore. Nel secondo numero Roberto Borassut, un rappresentante politico del PD che è stato anche consigliere comunale a suo tempo. E nel terzo numero con un teologo sacerdote di Palermo, Don Lorenzo Scordato, che lavora all'albergheria anche in termini sociali, aveva ospitato la compagnia di Franco Scaldati, un grande uomo di teatro e drammaturgo di Palermo. E quindi con queste persone la conversazione mira a focalizzare il tema del quadrimestrale, insomma, lo mette a fuoco in modo più serrato, nel senso che le domande riescono a strutturare, a dirigere, insomma, la conversazione su questi temi. E quindi ne viene fuori un quadrimestrale molto agile, perché a parte la conversazione più corposa, gli altri testi sono abbastanza brevi, di 7000 caratteri al massimo, insomma, quindi sono molto incisivi anche nello stile, che non è né il saggio, né la cronaca, né l'autobiografia, né io penso questo, ma diventa un modo di trattare un argomento che è fra il teorico e il poetico, e l'esperienza anche personale, che si fondono insieme in modo abbastanza, a mio avviso, efficace. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet. www.tbqvoices.com. Di cosa abbiamo ho bisogno? Il terzo numero del quadrimestrale online TBQ Voices del Teatro Biblioteca Quarticciolo. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice e responsabile Valentina Valentini. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie mille, buongiorno. Con Militanta degli Assalti Frontali per presentare la raccolta Assalti Frontali 1990-2020, uscita il 4 dicembre 2020, e il video della nuova traccia Compagno Orso in uscita sabato 13 febbraio 2021. Ben trovato. Ciao carissimo Fede, fratello. Una bella operazione questa antologia che hai messo a disposizione di varie generazioni, presentacela un po'. Alla fine uno va sempre avanti, avanti, avanti, avanti, poi quando fai 30 anni tondi di attività dici porco mondo, quanto tempo è passato, non me ne sono manco accorto, quindi mi faceva piacere di racchiuderla in un disco che è appunto una specie di viaggio nel tempo in cui si inizia appunto da 30 anni fa quando ci batti il tuo tempo, che è stata un po' una canzone simbolo e anche una canzone manifesto, perché raccontava proprio il periodo di questa nuova generazione in campo che usciva dagli anni 80, quindi che non eravamo più quelli degli anni 70, eravamo appunto dei nuovi pischelli che si esprimevano con nuovi linguaggi. E con questa canzone, insomma, quando ha fatto un po' boom, in qualche modo, e anche il rap, che prima sembrava che non si potesse fare in italiano, ha fatto irruzione come nuovo linguaggio e insomma è stato conosciuto da tutti, dopodiché c'è stata un'ascesa che è arrivata fino adesso, che proprio, cioè, sembra che il rap ormai lo fanno un milione di persone, e questa è una cosa bellissima comunque. quella prima traccia è nata, è caduta in un periodo come se fosse in una speciale congiunzione astrale, per cui all'interno del movimento studentesco della Pantera, che è stato un po' poi l'esplodere di tutto il movimento a seguire, che ha visto l'occupazione di vari centri sociali che erano già nati a metà degli anni Ottanta, ma che dal 90 in poi hanno visto proprio una loro esplosione, a tutti i movimenti a seguire. Quindi è stata un po' la miccia di tutto, è stato veramente sì, una... che poi guarda, è stato un periodo che incubava tutta quell'esplosione poi culturale, sociale che c'è stata poi negli anni 90. Come si dice, cioè, c'è pure un po' di culo, c'è un po' di aspetti, delle volte ci metto, dico, ma io non ho scritto un pazzo in suo tempo, va. Nel senso che poi ci stanno dei momenti storici in cui se riesci a stare dentro, a prendere l'occasione, poi chiaramente per prendere l'occasione devi anche avere la preparazione per farlo, per capirla l'occasione, no? Devi essere allenato a capirla. Però insomma io mi sono proprio affacciato, tra virgolette, insomma, all'attività politica di movimento proprio nel 1980, considera, quindi finivano gli anni 70, cioè io sono stato proprio un momento di passaggio, per cui quando sono arrivato al 90 erano già 10 anni che stavo lì dentro, facevo, cioè, quando ero ragazzino, quando avevo 13 anni che stavo lì dentro, che vedevo certe cose, che andavo in giro con i più grandi, che mi insegnavano come si faceva, che sapevano tutto questi più grandi, però allo stesso tempo non avevano più il linguaggio per parlare con gli altri, perché certe cose che pensavano e che dicevano magari non erano più quelle stesse valide. C'era bisogno di questi nuovi linguaggi e io nello stesso tempo ho cominciato a sviluppare questo amore per il rap, per l'hip hop che sentivo da New York, e allo stesso tempo e la facevo lì a Radio Onda Rossa, allo stesso tempo era un rap che la persona ancora non conoscevano, anzi lo guardavano un po' con sospetto perché era in inglese, non si capiva bene che dicevano, poi non c'aveva strumenti, non c'aveva chitarra, non c'aveva basso, non c'aveva batteria, magari era con una commercialata, capito? E quindi invece il fatto di aver introdotto il testo in italiano, di aver raccontato questa generazione che eravamo noi attraverso questo testo, delle occupazioni, stare tra il legale e l'illegale, i nostri riferimenti globali che erano quelli delle Pantere Nere, Black Panther Party, eccetera, ha creato quell'energia che era la colonna sonora di quel momento. E quindi, boom, quando c'è stata l'occupazione della Pantera, per gli studenti dell'università è andata particolarmente bene, cioè è diventata proprio la colonna sonora di quel momento. La scelta dei pezzi è legata a quelli più rappresentativi? Sì, perché alla fine questo non è un disco nostalgico, non è un disco che dice io 30 anni fa ho fatto quella cosa. È un disco che racconta appunto 30 anni di attività, praticamente ininterrotta. Ci sono state tantissime, alla fine sono arrivate più di 100 canzoni, e quindi devo fare un po' una censita fra tutte. Ho detto, vabbè, dai, ne prendiamo un paio di ogni periodo che sono particolarmente riuscite, che rappresentano proprio un periodo, pure per i ragazzi, giovani, quelli che ascoltano adesso Salti Frontali, che sentono e ripercorrono questa storia. La nuova traccia a cui hai legato anche questo video è legata ad un personaggio, a un evento che è stato molto emozionale in questi anni, la vicenda di Orso. Sì, è uscito proprio oggi il video di Compagno Orso, che ti devo dire, sì, è una cosa che ci ha emozionato a tutti per tanti aspetti. Sicuramente un compagno, uno di noi, insomma, che va a dare la sua vita a migliaia di chilometri, con una determinazione e anche una serenità che ci ha lasciato tutti, insomma, colpiti. Guarda, io penso sempre che il rap e l'arte in generale, comunque, chiaramente è qualcosa che si avvicina a un elemento di bellezza, e per me la bellezza e la felicità è rappresentata spesso dalla lotta, cioè la lotta comunque per me è bellezza, c'è la fatica, la blotta, quel vedere delle persone che danno tutto per una causa, quella è un atto veramente di arte, di bellezza, quindi per me la sua vita, il successo è stato un gesto d'arte che resterà nel tempo, e quindi lo volevamo raccontare, e quando poi tra l'altro ce l'hanno chiesto di raccontarlo, non è stato facile farlo perché non volevo assolutamente che fosse una cosa retorica. È uscita fuori quella canzone che secondo me è bellissima, poi chiaramente sta chi all'ascolta deve dirlo. Fare il video poi pure è stato abbastanza difficile scegliere il taglio da dargli, però appunto con il regista Stefano Cormino abbiamo scelto questo taglio di racconto. Noi raccontavamo e cercavamo di rappresentare appunto le parole che dicevamo, allo stesso tempo raccontare quello che ha fatto Orso attraverso delle tavole di 5 artisti illustratori che sono degli artisti romani del giro, insomma, un po' del movimento con cui avevo già lavorato, che sono Aladin, Chiara Fassi, Giorgio Calcare, Gianluca Saterini, Francesca D'Andrea, Andromalis, che hanno fatto delle tavole bellissime. È uscito fuori un video che a me, quando l'ho visto, sono completamente commosso. Poi ogni volta è bello pensare che quando fai una cosa nuova è la cosa più bella che hai fatto, poi dopo magari il pubblico ti viene voglia di farne un'altra. Però questa è uscita oggi, veramente c'è. Tra l'altro oggi è anche il compleanno di Lorenzo Orsetti, e quindi è un modo per fargli un regalo. L'importanza di una testimonianza è anche e soprattutto nell'attenzione e nella curiosità dei più giovani. Tu hai un bel rapporto con le nuove generazioni, lavori nelle scuole. Volevo sapere da te oggi che atteggiamento trovi. In generale trovo un atteggiamento buono, un bel atteggiamento. Cioè, tanti magari pensano, pure al limite giustamente, che dici, sai, se no le generazioni stanno solo a pensare ai social, ai telefonini, che è un po' vero, perché la società non gli offre altro. Noi ci siamo mossi in un contesto, quando io ero pischello, assolutamente diverso, molto più acceso, ma poi in generale questo periodo del Covid, figurati, noi quando eravamo 16, 17, 18 anni, stavamo sempre in giro in autostop, in giro per l'Italia, a fare dei concerti, manifestazioni, e loro no, effettivamente, però molto molto molto invece predisposti a sentire, a fare, curiosi. Il rap poi è una cosa che mi mette subito in comunicazione, perché tutti amano il rap ormai, quindi appena sentono però che c'è qualcuno che lo fa in modo un po' diverso, dicono, ah cavolo, ma si può fare anche così, bello. E quindi tanta attenzione comunque, tanta voglia di sapere, di capire. Ad esempio queste occupazioni nuove che ci sono state nelle scuole, in cui mi hanno invitato e sono andato, ho sempre trovato ragazzi veramente super preparati, incredibili, cioè che dico, ah, ma come sapete tutte queste cose? E quindi c'è anche della speranza, ecco. Tra l'altro nella canzone Compagno Orso ci sta Per Tempesta, che ha 17 anni, che canta. Una parte che infatti quando ci sono stato un po' a contatto ho detto, oh, te vieni con me, facciamo una canzone insieme, e non Miriam pure che c'ha 24 anni, però insomma c'è magari un po' più grande. Insomma io a loro ho detto, vabbè dai, lavoriamo insieme, facciamo insieme questa canzone, perché voi siete un po' le nuove generazioni, esprimete la vostra potenza, e infatti sono potentissimi appunto nella canzone. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più sulla raccolta, che per inciso anche la versione in LP, in vinile. In vinile, sì. Allora, intanto la raccolta la potete trovare sul sito assaltifrontali.it, che è un modo anche per supportare Assalti, perché sapete, cioè, in questo momento difficile per tutti noi, tra virgolette, artisti, gruppi musicali, che non possiamo fare concerti, che poi rappresentano una grandissima porzione della nostra economia, sono un grosso tracollo proprio. Cioè, ci stanno tanti gruppi che dicono, vabbè, dobbiamo fare un disco, manco lo fanno, perché dice, sai, un disco oggi lo fai, poi fai concerti, almeno lo vendi ai concerti, ma, cioè, col fatto che non puoi fare concerti è un casino. Quindi supportare Assalti e anche andare sul sito www.assaltifrontali.it e magari comprare il CD oppure qualcos'altro, insomma, che... E devo dire che c'è stato un grandissimo amore da parte di tutti, perché tutta la prima stampa è andata esaurita, cioè siamo la seconda, insomma, cioè abbiamo avuto una grandissima richiesta. E poi, vabbè, insomma, tutti i profili vari, Assalti Frontali, Official, eccetera, Facebook, Instagram, YouTube. La raccolta Assalti Frontali 1990-2020 e il video della nuova traccia Compagno Orso. Un saluto e un ringraziamento a Militantà degli Assalti Frontali. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Un abbraccio a te, Fede, un bocca al lupo per tutto. Grazie. Dai. Con Alessandro Luigi Perna, curatore della mostra Human Rights, la storia dell'ONU e del mondo nelle più belle immagini della United Nations Photo Library, allo Spazio 5 dall'8 febbraio al 12 marzo 2021. Alessandro, ben trovato. Buongiorno anche a te. Ci racconti? La mostra è stata realizzata con le immagini degli archivi storico-fotografici delle Nazioni Unite. Racconta attraverso le più belle immagini la nascita dell'ONU, che avviene nel 1945, il 24 ottobre, quando l'abbiamo inaugurato la prima volta la mostra, era la giornata delle Nazioni Unite, che è stata fissata il 24 ottobre proprio perché è il giorno in cui ufficialmente nacque l'ONU nel 1945. La mostra poi fa un percorso attraverso gli anni in cui c'è un focus sulle principali missioni all'estero dell'ONU dal punto di vista militare e poi su tutta quella serie di programmi e attività che pian piano l'ONU implementa nel corso degli anni. Con una cosa interessante, studiandoci le immagini, studiando la storia dell'ONU, si vede come cambia la sensibilità del mondo verso alcune istanze, alcune problematiche che progressivamente diventano patrimonio dell'ONU stesso e dall'ONU sono vinte. Ci do un'idea, se all'inizio ciò che la cosa più importante era il mettere in piedi l'Europa, perché ricordiamo che l'ONU nasce a seguito della Seconda Guerra Mondiale per il fallimento della Società delle Nazioni e per evitare che si ripeta il nazismo, il fascismo e l'olocausto e i drammi della Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'ONU nasce all'inizio per mettere in piedi l'Europa con una serie di programmi economici e sanitari e poi progressivamente espande il suo campo d'azione all'istruzione, alla parità di genere, alle istanze di democrazia, alle problematiche più recenti dell'ecologia, dell'invecchiamento della popolazione, eccetera, eccetera. Quindi è un percorso che non è solo dettato dall'evolversi degli eventi, ma anche dall'evolversi della sensibilità del mondo e quindi dell'ONU. Quante immagini raccoglie? In esposizione ci sono 160 immagini, di cui 60 sono stampate e 100 sono fotoproiettate. Come è organizzata la mostra? La mostra è organizzata cronologicamente. Sembrerà banale, ma a me piace questo tipo di gestione delle mostre storiche perché ti dà proprio il senso dell'evolversi, del cambiare nel tempo. La cosa, diciamo, che mi impressiona è come la prima parte delle immagini siano tutte dedicate a guerre e solo da un certo punto in poi, attraverso le immagini, si scoprono tutte le altre attività. Un'altra cosa interessante è quante attività fa l'ONU, quanti progetti ha portato avanti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, che una volta venivano definiti terzo mondo, sia dal punto di vista dei programmi nell'agricoltura, dei programmi alimentari, sia dal punto di vista industriale, sia dal punto di vista dell'istruzione. Ecco, hai parlato di conflitti e di progetti. Che impronta hai voluto dare a questa esposizione? Questa esposizione ha una formula diversa dal solito, un po' inedita, che è la formula che abbiamo deciso per Historian Photography, in cui da una parte c'è la valorizzazione delle immagini che devono essere sempre di forte impatto, o meglio, perdonami, la valorizzazione degli archivi fotografici attraverso una selezione delle più belle immagini. Dall'altra c'è tutta una parte di approfondimento giornalistico con un taglio editoriale. La mostra vuole suggerire anche una riflessione meno canonica e meno istituzionale, cioè vuole sottolineare anche le contraddizioni dell'ONU. Per darci un'idea, la maggior parte dei paesi che siedono all'ONU non sono democratici e non condividono i principi fondanti dell'ONU, pur essendo seduti lì. I conflitti a cui ha partecipato l'ONU sono affrontati a volte anche con un taglio critico, che però a mio avviso è dovuto, perché per esempio si racconta come è stata una contraddizione il modello di intervento delle Nazioni Unite ai tempi della Bosnia, una guerra che magari i più giovani non conoscono, ma che allora macchiò l'onore dell'ONU perché non intervennero, per esempio a Srebrenica, e perché decisero di mettersi solo, diciamo, in mezzo, ma non di perseguire finalità diverse da quelle. E ricordo ancora il massacro dei Tutsi da parte degli Hutu, altra vicenda per cui l'ONU si è perso l'onore e ancora oggi si trascina con varie critiche all'operato delle Nazioni Unite. L'altra cosa interessante è che però si vede, ad esempio, all'interno di questi interventi, primo come cambiano nel corso del tempo. All'inizio, per esempio, sono con la guerra di Corea, l'ONU interviene in maniera aggressiva, un'aggressività che non avrà più successivamente. Ma poi anche, per esempio, come la necessità di evitare che l'intervento di truppe occidentali, che poi sono quelli che una volta fornivano la maggior parte delle truppe, viene sempre più limitato all'interno di paesi che potrebbero percepirlo come una neocolonizzazione. Un dibattito che a un certo punto è venuto fuori. E per esempio in Africa le truppe dell'ONU sono molto spesso espressione dei vari eserciti degli stati nazionali africani e con i contingenti di soldati che vengono dalle nazioni europee. Questo è per dire come l'ONU abbia mutato le sue modalità di intervento anche in funzione della necessità di non sembrare solo espressione dei paesi occidentali ex colonizzatori che in qualche modo potevano imporre attraverso l'intervento dell'ONU una forma di neocolonizzazione. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per tutte le informazioni? Come ho accennato prima, la mostra fa parte del progetto History in Photography, progetto rivolto al grande pubblico, a scuola e università, che valorizza gli archivi storici fotografici e vuole raccontare la storia con la fotografia. Questo sito consente anche di vedere la mostra a distanza pagando un biglietto d'accesso. Poi la mostra può essere vista in forma analogica allo spazio 5 di Roma dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e sarà in esposizione fino al 12 marzo 2021. Human Rights, la storia dell'ONU e del mondo nelle più belle immagini della United Nations Photo Library. Un saluto e un ringraziamento al curatore della mostra, Alessandro Luigi Perna. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, buon lavoro. Con Cecilia De Laurentiis, autrice del libro Marchiati, breve storia del tatuaggio in Italia, della Momo Edizioni. Cecilia, ben trovata. Ciao, ciao a tutte e a tutti. Ci racconti di questo lavoro? Questo libro nasce dalla necessità per me, in quanto tatuatrice, di dare dignità al tatuaggio che per troppo tempo è stato associato, insomma, ad ambienti sociali un po' borderline, diciamo a una decadenza dei costumi. Ecco, per questo, dato che questo concetto è fortemente radicato nel nostro immaginario collettivo, soprattutto con il diventare un fenomeno mainstream, secondo me questa percezione si è acutizzata, ho sentito appunto la necessità di scrivere una storia del tatuaggio che vada al di là dei luoghi comuni, insomma, e che cerca di rispondere appunto alla domanda se storicamente è vero che il fenomeno può essere relegato soltanto ai marinai o personalità criminali, insomma. Ovviamente quello che emerge dalla lettura è che non è così, anzi la tradizione millenaria europea, ma soprattutto italiana, è molto importante, stratificata e molto più profonda di quello che, insomma, si possa credere banalmente. Che tipo di ricerca hai fatto a livello bibliografico? Le mie ricerche partono dai tempi dell'università, perciò il timbro è accademico, anche se il linguaggio è divulgativo, insomma. Ho voluto scrivere un libro veramente per tutti e tutte. La ricerca però più importante è stata quella realizzata all'interno degli archivi del Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso dell'Università di Torino, che appunto conserva un fondo sui tatuati con fotografie e pezzi di pelle tatuata, documenti fenomenali per questo tipo di studi, e altrettanto fenomenale è la documentazione conservata invece al Museo di Arte e Tradizioni Popolari, oggi MUCIV, collezionato da Loria all'inizio appunto del Novecento, dove ci sono sia pezzi di pelle tatuate dei criminali napoletani, sia questi cliché in legno del tatuaggio di Loreto e altri tatuaggi provenienti dalla Liguria e dalla Sicilia, tutti di fine 800. Perciò sono documenti inediti che sono stati indagati sicuramente poco e ho avuto la possibilità di appunto mettere mano su questi documenti, insomma, per me fantastici. Prima della diffusione attuale, che storia ha avuto la fruizione del tatuaggio in Italia? Questa è una domanda interessante, proprio perché gli studi sul tatuaggio in realtà partono già dalla seconda metà dell'Ottocento, con la scuola lombrosiana. Contrariamente a quanto si pensa, vi sono molte pubblicazioni sul tatuaggio, ma tutti di impronta positivista, e che consideravano il tatuaggio una sorta di segno di riconoscimento per i criminali. Questa era la teoria dell'atavismo, appunto, di Lombroso, e per questo tutte le pubblicazioni successive, volontariamente e involontariamente, portano con sé il preconcetto lombrosiano, proprio perché i primi studi sul tatuaggio sono di questo tipo e hanno continuato ad esserlo. Adesso le pubblicazioni che si trovano sul mercato sono più di carattere prettamente antropologico, oppure sono pubblicazioni realizzate da appassionati che di certo non possono vantare un approccio accademico scientifico. Io invece ho tentato di apportare sia un punto di vista diverso da interno, da chi vede il tatuaggio, chi lo conosce effettivamente il tatuaggio, ma ho cercato anche di appunto apportare la mia esperienza accademica e soprattutto dando una lettura iconologica e iconografica del tatuaggio, oltre che antropologica. Per quanto riguarda il fenomeno metropolitano, posso dirti che sicuramente nel decennio 90 c'è stata una prima diffusione legata soprattutto all'esperienza delle occupazioni autogestione, al cosiddetto movimento antagonista. C'è stata poi, secondo te, un motivo scatenante che ha lanciato su una scala così allargata la moda, chiamiamola così, del tatuaggio? Beh, per la mia esperienza il tatuaggio, diciamo, proprio in virtù del fatto che convenzionalmente è associato a soggetti criminali, di solito si riesce ad ottenere proprio l'atteggiamento opposto, ovvero quello di appropriarsi di un segno che è considerato di marginalità, perciò da esporre con orgoglio da parte di chi effettivamente si riconosce al di là dei costumi della società tradizionale, come posso dire, istituzionale. Perciò questo è il mio punto di vista. Secondo me è successo questo, e questo è chiaro sia perché non solo è successo in realtà negli anni 90, ma anche precedentemente con le sottoculture punk e prima ancora hippie, e prima ancora in realtà, per esempio, nella Germania di Weimar è successa una cosa molto analoga, perché appunto artisti e intellettuali, per esempio Egon Erwin Kisch, che era un intellettuale comunista fortemente militante, o Otto Dix, che appunto si riteneva anarchico, fecero proprio questo marchio di marginalità per appunto sottolineare la loro diversità della verità costituita, e perciò per questo appunto io ritengo che il tatuaggio sia diventato un po' un segno di riconoscimento di chi si pone in maniera antagonista. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sul tuo libro? Potete andare sul sito della casa editrice Momo Edizioni, www.momoedizioni.it, oppure potete passarmi a trovare a studio in via Laurentina 3H a Roma, al Bloody Anvil. Potete acquistare anche direttamente da me il libro e magari ci facciamo anche una chiacchierata. Marchiati, breve storia del tatuaggio in Italia, un saluto e un ringraziamento all'autrice Cecilia De Laurentiis. Un abbraccio, ciao. Un bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi il lupo, ciao. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.